later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli normalmente si fatica a prender sonno. Kappa e Drago vivono nei sogni. Drago, Drago, ma dove sei? Drago, ma chi è? Drago, cos'è? Sono Kappa, ti sto parlando da un sogno. Mi vedi? No. Mi senti? Sentirti sì. Da dove? Dagli altoparlanti della fabbrica. Appunto, perché io sono a Parigi. Ma come a Parigi? Sì, sto sognando e sogno di poter parlare con te via Skype. Via Skype? Sì, o via Skype, come si dovrebbe dire. Come via Skype? Sì, come Nike, che in realtà è Nike. Ah, e allora è Condoleezza Rice come punta Rice? Questo è molto divertente. Pollo, tu hai soltanto un modo per ritornare nelle mie grazie. E posso intuirlo? È quello di procurarmi quella robetta che l'ho finita. Vabbè, allora quello... lei sa che io posso farlo, eh? Se no, Pollo, cade la scura e non so se mi spiego. E ma dove? Sul collino del Polletto. Ma no. Pollo, Pollo. Tanto lo sai che sei un imbecille, no? Ma perché oggi tutti questi insulti? Ma non sono insulti. Eh no. Sono brutti. Questo è reality management, Pollo. E beh, allora io chi sono? Uno schiavo? No, un fesso. È un fesso perché sto qui a lavorare per lei. Il mondo è diviso fra privilegiati e imbecilli. Vabbè, mi sembra un po'... Privilegiati sì, ma... Ecco. Vabbè, ma io... Quindi, o si fa parte di una categoria o si fa parte dell'altra. Vabbè, tu ti senti no, un privilegiato no, con la vita che fai? Perché sono imbecille io? Che qua nella fabbrica faccio quello che voglio. E figuriamoci gli altri allora, no? Pollo, scusa, abbi pazienza. Di... Ispirati per un istante, anche se fai fatica, al reality management. Li faccio un po' fatica, Ecco, allora, concentrati, ti aiuto io. Ti do una zampina. Se siamo divisi in due categorie, privilegiati e imbecilli. E tu non sei un privilegiato. Tu ti consideri un privilegiato con la vita che fai? Che vivi con le zampette sempre in mezzo alla cacca dei tuoi simili? È tutto relativo, simili. No? Io mi confronto con i miei simili. Ecco, ma non sei un privilegiato. All'interno del mio ambiente sono un privilegiato. Pollo, ascolta. Io non posso confrontarmi con lei, Esiste solo una categoria di privilegiati e una categoria di imbecilli. Tu purtroppo, per esclusione, anche se non lo sei, non sei un privilegiato e vabbè, quindi sei un imbecille. E questo già, da questo punto di vista, già posso essere più d'accordo, però... E allora ai miei compagni posso dire, io sono un privilegiato. Tu no? E allora tu sei un imbecille. Posso? No, non puoi farlo. E sai perché? Vabbè, perché siccome stiamo arrivando alla fine, alla catastrofe finale, il mondo per prepararsi alla catastrofe finale deve semplificare i processi. Cioè? E quindi non ci sono più sottocategorie. Esistono solo due macro categorie, i privilegiati e gli imbecilli. Administrador, delegado, ci sono gratos que... Cada dia nessa fábrica é carnaval. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. La fábrica de polli. Sfera, sono il confessionale eretrico della cappella di San Gallo. Sfera, chiedo ufficialmente un intervento della Santa Sede. Sfera, non c'è nessuno che venga più a confessarsi. E quando vengono, mi usano come urinatoio o come luogo di incontri illeciti. Sfiera! La mia dignità di apparecchiatura elettrica viene continuamente lesa da questi comportamenti irriguardosi. La mia sfera intima, seppure limitata e lacunosa essendo io artificiale, ne esce malconcia e umiliata. Per cui mi rivolgo alla Santa Sede affinché possa inarcare il suo sacro sopracciglio e decidere che il turno di pulizie e di rimozione escrementi venga esteso a tutti i giorni della settimana, domenica inclusa. Sfera! Sfera! Sfera! Lo sai che porto una teleca da dare a un tuo simile, e in quanto simile lui non ti fregherà, perché il suo bene è uguale al tuo, ma il pollo è povero e vota quello ricco, guardando il piatto dicendo un micifico. Il pollo è debole e vota il leone, che se lo mangia in un solo boccone, e mentre muore ripete non è male, lui mi ha promesso in dono il funerale. E non è vero che è andato tutto storto, se posso avere lo sconto anche da morto. La fabbrica dei polli. Drago? Oh. Drago, ci sei? Sì, ci sono. Drago, mi senti? Sì. Mi vedi? No, ma è pazzesco che io possa parlare con te nel sogno, cioè quantomeno è rivoluzionario. Ma no, ma mica tanto, basta avere un telefono Skype. Nel sogno. Nel sogno. Cioè, tu dal sogno chiami il contatto Skype della fabbrica. Sì. E io ti parlo dalla realtà? Boh, questo non lo so esattamente. Come sarebbe a dire? È perché io sto sognando questo dialogo, capito? Ma io no, invece, io lo sto facendo da sveglio. Ma come lo sai? Beh, lo so se sono sveglio, no? Non puoi mica esserne sicuro, Drago. Ma come no? Ma Drago, Platone, lo sai, sei sveglio o sei solo il mio sogno? Vedi, non lo sai. Ma tu in che zona della fabbrica stai dormendo? Ma no, ma io sono a Parigi, non nella fabbrica. Questo è un sogno. Vabbè, ma dove ti sei addormentato? Non sto dormendo, Drago. Sto bevendo champagne a Taria. Ma come? Sì, e questo è un sogno, Drago. Forse anche per te. No, ma io sono sveglio. Non lo sai, non puoi saperlo. Ma certo che lo so e basta. No, Drago, tu esisti solo sogno. E invece sì. E invece sì. E sai perché? Perché Anna. Anna. Anna. Anna. Fedele, in che cosa posso esserti utile? Cosa stai facendo, Fedele? Fedele è intollerabile! Sfera! Sfera! Deciano! Sfera! Che cosa succederà adesso? Il sogno di Kappa e la realtà di Drago hanno davvero trovato un varco per comunicare? E che ne è del Kappa dormiente che sogna la realtà di Drago? C'è qualcuno che ha un pallottoliere? Lo saprete soltanto sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo delinquenziale allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.